canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? C'è per il Vellaco Gommino. Come dice? C'è per il Vellaco Gommino. Quindi non fa più rumore il cavalletto adesso? No, non fa più rumore, c'è il gommino. Ah, ecco. Adesso posso appoggiare, bene, non fa più rumore. Beh, te credo, se c'è il gommino. Sì, ho messo il gommino di gomma, il cavalletto cavallottando. Vabbè, com'è? Caldo. Sì, anzi, il caldo non ce n'è stasera, c'è un po' di maestralotto, già va bene. Ma qua c'è caldo, vaffanguarda. Qua sta bene, c'è maestrale, va bene. Che si dice? Che si dice? Niente, si dice. Che si deve dire? Sempre tutto cappa di rosmetro. Lassù non sta più parlando nessuno, non ho più sentito nessuno. Ma chissà che fine hanno fatto. Come no? Ci sono io. E vabbè, si da Zurbero. Ci sono io, no? Sto salutando. Sì, già l'ho sentito. Voglio dire che sono tutti in letargo. Marco è impegnato, c'è sempre delle gare molto importanti, la Furia anche una settimana. Walter prepara due burroni, non c'è ne gioco. Gianfranco, manco qua in 27 ho più sentito. Si è ritirato per deliberare qualcosa, ma non ci spiega cosa sta deliberando. E infatti non l'ho più sentito a Gianfranco. Non sento né qua e né là, da nessuna parte. Non so che dirti, KK. Oh, Claudio, volevo dirti, ma c'è chi dice che non è obbligatorio il logo, però il libro dice di sì, che è obbligatorio. Certo, non è obbligatorio. Forse è obbligatorio, se viene un controllo come fai a fargli vedere il logo di stazione? Mi pare ci siano le normative anche logo di stazione. Dovresti chiedere al tuo presidente. Stai tranquillo che se te lo dice lui è così, è abbastanza informato. Io ti posso dire che non so niente e so che è obbligatorio, poi non so se è successo qualcosa. Ma Roberto stava dicendo che è passata una circolare che non è più obbligatorio. Invece il mio presidente ha detto che è obbligatorio, tassativamente. Allora tu segui le normative, le direttive del tuo presidente, che sono più veritiere di quello che può dire Roberto. Capito? Che Roberto Maria ha letto qualcosa, però lui, essendo presidente dell'ARI, essendo anche il comitato regionale, si occupa di tante cose inerenti alla radio, molto più, ne sa di più, capito? Lo so. Tu che programma usavi per il log? Perché io non ne ho programma, mi avevo fatto quello cartaceo e basta, c'ho quello cartaceo dovrei avere. Guarda, a me mi aveva fatto tutto Marco Scorpion, e usavo tutto quello di AM Radio Deluxe, tutto con quello facevo io. Ah, cappa. E vabbè, vediamo un po' da... Perché io ne vorrei uno da fare solo il log senza avere programmi in mezzo alle scatole. Tanto io cosa vuoi che non ne faccio modi digitali, tutte queste malassurzi qua. Allora, se senti a Marco, se lo sento magari a 5:25 di cui passare qua se ci sei tu, oppure di non lo so, un po'. Ma Gianfranco dovrebbe sapere, anche Gianfranco c'ha il log. non lo so cosa usano però loro. Boh, no, non lo so, c'è la lì, la verità. Sì, lo so, lo so. E Gianfranco, che l'ha più inteso, non si è più sentito assolutamente né là e né qua. Se lo sentivo qua glielo chiedevo. Lo scendo, sì. Sì, signore. Ho fatto un calo di radio. È sempre buona la radio. Sì, signore. Io non ho notato nessun calo. Gappa, gappa. Va bene, va bene. No, oh, sai, questi 60 ogni tanto vanno in tilt, si inceppano, no? Lo so. Cazzo, mi devo procurare un tasto. Io il mio l'avevo regalato a Antonio. L'avevo regalato. E adesso sono io senza tasto. Che gira gira. Dopo l'esame, se mi va bene, mi do un po' alla telegrafia. Mi costruisco lo scillofono, che ce l'avevo anche lo scillofono, però adesso me lo devo rifare, perché non ce l'ho. E io c'ho sempre quello, me l'ha regalato Andrea, però quello non te lo posso fare, se non te l'ho trovato. È un regalo, e ce l'ho sempre dentro l'armadio. No, e il mondo ha fatto la telegrafia, ho fatto il capo Bubuglione, che va giù sulla telegrafia manca. Ma io mi stavo appassionando, te lo ricordi che mi stavo appassionando? Se non faccio i modi digitali, almeno qualcosina lì. Ah, beh, tu già ti appassioni in freccia. No, io non potrei mettermi lo fa qualcosa, le basi ce le ho, ma c'è da rimettersi sotto e... No, non mi interessa più. Tanto io che non faccio, guarda, ci mi pongo a fare telegrafia. Manco con l'anticamera me ne passa. Ehi, già lo so, non è tanto facile. No, beh, se le basi già non è difficile. Non è difficile, chiaramente mettete sotto e... Non tanto la trasmissione quanto la ricezione, quindi sai benissimo che è sempre un suono di musica, però c'è da studiare, non agio più grave di mettermi a fare più niente, assolutamente, già va bene così, ho già dato. Sì, lo so, e intanto io non è che posso fare più di tanto, mina KF, cosa va, senza antenne cosa va? Ehi, vabbè, senza antenne Natalia. Quella è facile da togliere, ne togli quella e metti una 5 bande. E sai pur certo che anche il 27 va bene, e si appoggia. Sempre a fa un sacco di ricorsi. Togli quella e ci fidi una 5 bande, capito? E fai tutto, 10, 15, 20, 40, 80. Sì, vabbè, ma ci sono i radiali, dove me li metto? Io no, che non ve lo no. I radiali, non ve ne arrabbiare, no, quello per KWC non è arrabbiare, è uno stile uguale all'inizio della Goja, della Game Master. Ma sarà pesante sicuramente. È grossa, è in alluminio, è 8,50 metri lo stesso, è un bel alto. Se no fai quello che devi fare, ma poi fai 10 metri e fai corsi locali e poi ascolti, corsi locali ti fai 10 metri come faccio io e anche fuori con la verticale faccio i 10 metri, faccio tutto, non c'è problema, capite? E boh, ti fai un dipolino per i 6 metri e sei a posto. Non ne ho a fare i 15 metri, no? Ma l'ipolino ce l'ho già qua, bisogna vedere se riceve, se fa, non ho apparati per poterlo provare, ma già ce l'ho, un ipolino ho fatto, anzi due sono, comunque con la verticale faccio 10, 11 e 12. Va bene, lascia stare tutto così, dice al mondo com'è, tanto non te ne va in nulla, ma fottiti. Quello che sto dicendo, è sempre tutto là, quella roba. Sì, sì. Gappa, gappa, va bene, va bene. E adesso mi faccio, cioè una l'ho già fatta la mensola, però mi devo comprare delle staffe belle grosse, così metto anche l'altra, ne metto due e siamo a dama. Adesso come ritiro vado da Brickoman e me le compro in acciaio. Io va bene. E tutto funziona alla Marlon Brando. E infatti. Vediamo cosa si può organizzare. Mi interessavano i 40, ma che cazzo. Adesso bisogna vedere se lo dico lo anda in Kiwi. Perché è in una posizione un po' così. Cazzo, non mi hanno legato il sali e scendi, se no quello dai 40 ce l'avrei salito. Ma vabbè, vediamo cosa si può fare. Claudio. Ehi, dimmi. Capo, ciao, c'è la Salino. Ascolta, la radio pulita è, vedi a vedere così com'è, se come l'altro giorno. Sì, pulita, pulita, sta a posto fra. Capo, vai. Allora, va bene, l'ho rimessa come dalla casa, dai. Andando dei Caraibi, ciao fra, sta arrivando benissimo qua. Ehi capo dai, 10-11 watt modulati, ho trovato l'importante, l'ho messa, e a 3 watt l'altra. Quando tu giri ti ho detto tutte le rette power, deve avere 4 watt, quando giri il power al massimo deve avere 10 watt, quello è dalla casa. Ehi capo, è così dai, è così. Io l'ho fatto, allora, la portante nuca l'ho fatto a 3 watt e a 10 watt. Va bene, anche se lo metti a 4 watt va bene lo stesso. La casa va a 4 watt con il reverse power chiuso e 10 watt con il reverse power tutto aperto. La mia è così, capito? E quando chiudi, se c'hai un 747 lo porta con una meraviglia, ti dà 80 watt e tu ci appoggi. Capo, sì. Infatti l'ho passato per te, l'avevo tirato tutto, e adesso diciamo che il minimo l'ho messo a, diciamo, la potenza zero a 3 watt e l'altro sono 8 watt ma modulati mi dà anche 13-14. Esatto, senza lineare, senza niente, anche il mio, modulati nella 13-14, allora è perfetto, va bene. Eia, va bene. Oh, scusate, continuate che io devo chiudo, vai, me l'ho sistemato adesso. Mi prendi la Talino? Eia, no problem, adesso mi apro le MP4 e vediamo cosa mala sorte ha. Prova a aprirlo, prova Natalino, già sono qua, vai. Già sono qua. Ok Franco, quando vuoi siamo qua, eh? Intanto anch'io metto a fare qualche cosetta. Ehi capo, dai, io ho il tempo di chiudermi tutto e poi sono libero. Ho detto fra la radio, la mia è sì, che sto usando il 430, sia che ho toccato qualcosa, va bene? No, va benissimo, benissimo, non toccasi. Va bene, non toccasi allora, scappa di rogio. Ehi capo, va benissimo qua. Claudio. Oh dimmi. La radio com'è? Bassa? No, va bene, non è bassa. Perché? Aspetta che l'ho smontato un attimo. No, va bene, va bene. Ultimo per la truppa. Questo è l'MB più 4, ce l'ho smontato in mano. Guarda, adesso è a manetta, aumentato. Sì, leggermente sì, non molto, ma già aumentato. Perché a metà non mi amplificava, mi usciva basso. No, io va bene adesso, va bene, ottimo. Guarda, adesso è a metà. No, fammelo meglio, prova. adesso è a metà, guarda un po'. E prova a mettere la manetta. Adesso è a manetta. E il tocco cambia, e aspetta un attimo. Guarda, adesso è a metà, sempre. Io ho messo un po' di quello spray a vedere. Sempre uguale, Natale, non cambia nulla. Sempre uguale. Sì, ma la radio com'è? Bassa? No, va bene la radio, ottima. È strano, cazzo. L'ho piazzato nel microfono e non andava bene. Non c'è, c'è strano il microfono. Non lo sai? Ci sono strani i microfoni. Sì, quelli sono strani, sì. Dice lui. Claudio, ci sei in ascolto? O Giulio? Stavi chiamando, Natale. Ehi, Cla, guarda a vedere come va il microfono. Benissimo, alla grande. Adesso è a metà. Mettilo mentre stai parlando, mettilo al massimo, però se no non me ne accorgo. Vabbè, perché c'ho il circuito in mano, Emmy. Adesso lo aumento, guarda, piano piano, guarda, lo sto aumentando. Agisce, guarda, adesso è a manetta. Puoi lasciare a manetta, Natale, c'è pochissima differenza. Ma a metà, cosa ti volevo dire? A metà amplifica, guarda, adesso è a metà. Adesso è a metà dovrebbe essere, là. Va benissimo, alla grande, amplificata, tutto capra. Quindi lo lascio così, là. Eia, lascialo stare così. Andrà bene meglio, là. Si conferma confermandosi. E adesso lo piazzo il circuito e poi lo chiudo il microfono. Eia, chiudilo. Sembra che amplifichi anche di più adesso. Però è a metà a me. Lascialo stare così che già va bene. Dopo lo provo in tutte le salse. Adesso l'ho chiuso e si devo cavare tutto dai nobili, se no mia moglie li va a ammazza. Boga ridotto, boga, pulisci, fai pulizia. Tutto ok. Tutto ok, capa di rosmetro. Fatto, fatto. Se no quando viene mi sbrana quella, se non era pulito qua. Perché poco fa è venuta, io c'avevo tutto aperto qua. Forse è quello, quando non c'è posto, lo devi fare. E adesso quando ritiro mi piglio quelle staffe, così il posto vedi se c'è. Se cavo tutta questa roba dai nonghi, almeno c'ho il banco libero. E si conferma, così. È come che abbia due scrivanie. Beh sì, certo. È come che abbia due scrivanie, sì. Adesso sono lontano un metro ed è sempre a metà, quindi dovrebbe andare alla grande. Non si è sentito nessuno oggi, ma sono tutti a prendere il fresco. Evidentemente sì. Va bene. Andiamo. Ma comunque c'è inteso, ho più sentito a Luca Manicomio. Cosa, Cla, che mi ero allontanato? Caponato che non che ho sentito anche Luca Mancomio. Chissù, sarà alla Marina di Sussu, alla Pazza Nostra, chiedendo di Cubrecco. Sassa Maria di Sussu, Sassarese che andrà a Marina di Sussu, Fattamone può andare a Sassarese. Ah, oh, e tu sei andare a Marina di Sussu, ribiate più un chivi. E perché per guardi Cicito Gamboni, in chivi, capito? Dice c'è fino a Corciadoro, vai, ma... Si boce anch'io, ci fate due, tre berrette e poi non comprerebbe un cazzo. Allora, tu non capisce più niente, e allora se ne ritorna. Deve essere per quello che non sta entrando allora. Ma Marcolino si sentiva male ieri, non si sentiva bene. È entrato così, mi, perché l'ho fatto entrare io. Quando ci serve non c'è mai, adesso stasera mi serviva qualcuno, meno male che eri tu. No, io ho linea di massima, sono sempre in ascolto, se sono fuori già ti sento, se, stai, se chiami a me personalmente già ti rispondo, capito? C'è un problema. Marcolino è in astinenza, il poveretto, capito? È in astinenza, non sta uscendo, quindi non può, fare niente. E allora, io lo volevo portare dall'asino della Crucca e lui non ci vuole venire. Non ci vanno, ecco che non mi piacciono gli asini, capito? Entra, Marcolino, aiuto, entra, da. Magari se ne ridendo già tra i baffi, lui. Poi Marcolissimo, non ha i baffi, neanche barba, c'è, tra un pelo e l'altro ci vuole il pullman. E c'è qualche chilometro di distanza. Oh signore, aiuto Marcolino, entra. E quell'altro cuocomane di Adriano, ci hai sentito? No, lì dove un di poi un pezzo di virus dentro un gas, e dici Marazzucchi. Senti, arriva anche qua, se non c'è propagazione arriva anche qua. Se dovessi aumentare un pochino la potenza lo sento meglio. Voi siete tutti vicino, quindi vi sentite, però già arrivo. Maledizione, se serve il QRM è un casino. E beh, ce l'ha dentro casa l'antenna, sai, anzi è un miracolo che riesci di intindillo. C'è uno di qui Connex 7000, mi pare, una cosa del genere. Uno di quegli apparecchi c'ha. Ma andrà bene, veda. E c'è un dipolo attaccato in verticale, ce l'ha, lo può mettere in orizzontale, come vuole lui. Sì, però già arriva. E infatti, quello che ho fatto io già funziona. Qua l'ho provato, ma di là non posso provarlo, non ho apparecchi per provarlo, non c'ho nulla. E cosa vuoi fare? Vabbè. E l'ho fatto, io non so se l'avevi visto tu. No, non l'ho visto, non ci ho fatto caso, non lo so. Sopra lo stenditoio, è più su dello stenditoio. E allora non ci ho fatto caso, ma se funziona, tutto va bene. E sono due pezzi di filo che ci ho messo così, separati da quelle cannucce per l'impianto elettrico, per tenerli separati, tipo scaletta di come avevo fatto la G5RV. Cazzo, quell'antenna se ne sta ridendo in campagna. Beh, io se avessi avuto quella la rimontata, che è piccola, quella che c'ho, la Marco è enorme, cazzo, minchia, non so la mettere. È troppo grande, devo stenderla, devo mettere un palo, o attaccare sotto il palo della mantova, poi tirarla, mettere un altro palo in campagna, con i 50 metri di cavo, poi non ho più voglia di matterli. Se avessi avuto la G5RV, l'avrei agganciata dalla mantova all'altra antenna, capito? E avrei usato quello. Come pare avevo regalato a Vannino. E io ce l'ho sopra 10 metri di palo, è enorme, c'ha gli 80 metri pure quella che ho io. Cazzo, sa povero Salvatore aveva fatto la vista, gatta, in 80 metri perché arrivavano sparati. Salvatore era del figlio. Quell'antenna avrà anche quella di 5 RV corta che gli avevo fatto io, in casa sua, piazzata. Gliel'ho fatta io quella di 5 RV, gli mancavano solo gli 80 metri, tutto l'altro ce l'aveva. Perché era più corta, no? Lui non c'aveva spazio come me in campagna, e allora gliel'avevo fatta fino ai 40. Non meglio 80 metri, non mi interessa. Mi pare che anche la mia non avesse gli 80 metri da quella corta. 10, 15, 20 e 40 faceva. A me piace molto i 20 e 40 metri. 80 metri non me ne ha fatti nulla. Sempre questo locale così. Invece non 40 metri, 20 metri, 15. Va bene. Sì, già c'era quella, si vede anche, è sempre piazzata lì in via Corso, dove abitava lui. Sì, via Vivattaio. E l'abbiamo imbiassata in pari, tutto. Infatti dalla buccia di Pavia di Sant'Enno è più azzardo a farsi ricollegamento, perché sennò prima stava sempre a casa e lui si faceva i collegamenti con quell'antenna lì. Io già me lo ricordo, ci trovavamo anche la domenica mattina al quadrato, c'era 140 in macchina e faceva i collegamenti alla macchina. Sì, già lo so, c'aveva quell'altro piccolino prima, che poi se gli era bruciato, e 706 della ICOM aveva. Sì, 706 MKVG aveva. Poi aveva preso l'857 e poi invece metteva 140 sopra sedile. E io risolvo, con 140 in realtà, si faceva come i collegamenti. C'aveva quelle antenne della ECO, vedi? Trovandole quelle antenne mi sarebbero servite. E già ci sono. Già ci sono quelle. Ci sono quelle dell'MA5, costano un po' di più, ma sono come quelle, ci sono tutti gli stili 10, 15, 20, 40, 80, 6 metri. MA5, così è. MA5, io ce li avevo tutti gli stili in macchina di volta. Tutti ce li avevo. C'avevo lo stile dei 10, dei 15, dei 20, dei 40 e anche, boh, non me lo ammetto, non mi ricordo. Comunque ce l'avevo tutti. C'è il moto, lo metti il moto, c'è l'adattatore, intercambi gli stili, MA5. E devo vedere un po', perché vediamo cosa va, speriamo che mi vada bene. Stai studiando perché deve andare male, non ci conferisce. Deve andare bene, sì. MA5, infatti MA5 perché c'ha gli stili di 5 bande, capito? Costano un po' di più, ma sono robusti, funzionano molto bene. Funzionano molto, molto bene. E perché Marco, quelli della ECO aveva dovuto modificare il moto, non so, da tutta via là. Praticamente gli stili dell'MA5 non vanno bene nel moto della ECO. Allora Marco ha fatto l'adattatore, sono più stretti, quelli sono più larghi, il passo è diverso, capito? E si è fatto l'adattatore, gli ha fatto Fabrizio Antonio, come ha fatto anche a Walter, e può usare sia gli stili della ECO che quelli dell'MA5. Ma cazzo, per quello l'aveva fatto il coso. E vabbè, già mi farò spiegare com'è la situazione. Quindi gli stili della ECO c'hai, metti quelli della ECO, siccome lui c'aveva gli stili della ECO, gli stili della MA5, per usarli tutti e due ha dovuto fare un adattatore, no? Perché quelli della MA5 sono più larghi, quelli della ECO sono più stretti, e quindi ha fatto Fabrizio Arturne, gli ha fatto un adattatore con quello a vita, con lo stesso passo, una riduzione, no? Capito? Usare uno stile e l'altro, come c'è Walter, lo stesso. E io ho capito, E vabbè, vediamo un po'. Eh sì, conferma, conferma. Attento Gianfranco, senza capelli, che è sparito, sì. È sparito quello lì, non mi vuole più parlare, ci deve essere offeso. Cosa abbiamo fatto, prof? Noi brave persone siamo, nulla facemmo. Infatti non gli ho fatto niente, è per affari suoi, magari è impegnato e non ha tempo, capito? Ma prima entrava sempre, non l'ho più sentito da parecchio tempo. No, ma neanche in volte è proprio sentito, faccio la chiama, vediamo se mi risponde. E prova a vedere. Niente da fare, neanche facendo il balbuziente risponde. Neanche facendo il balbuziente. Non hai visto, chiamato facendo il balbuziente, cu, niente da fare, non c'è. Cucù. Non c'è niente da fare. Cucù non c'è. E non c'è beticchia, non lo so. Se non c'è troppo caldo, se non è fuori per lavoro, speriamo che sia bene. Mi sa che lo chiamo al telefono a vedere cosa è successo. Oggi che lo chiamo a vedere, non si sa mai davvero che sia successo qualcosa, perché è impossibile, Gianfranco è sempre in radio. Anche se non è, però se lo chiami già ti risponde. Aspetta, lo provo a chiamare al telefono a vedere. E io manco quello, ci chiamo, lo chiamo. Ehi, ehi, così ti dico se sta bene, se tutto a posto, se è impegnato, siamo più tranquilli. Ecco, iniziamo a preoccuparmi, non risponde manco al telefono. Infatti è strano. Io manco il telefono, non c'ho nulla. Vediamo, se non sta innaffiando, se non sta facendo qualcosa. Per la chiamata mi ha sempre chiamato, quindi vediamo se mi chiama. Se non mi chiama, c'è qualcosa che non va. E infatti. Oh signor, me, forse è tornato qualcuno, ho sentito il motorino. No, deve essere... Ciao Domenico. Mi deve essere Alfa, Ciao Roberto, mi hai ascoltato. Domenico con Roberto. Sì, ho detto. Deve essere Alfa. Ho chiamato anche io. Ma vieni, ho messo un'altra, così c'ho... 2V e 2U. Perché c'ho tutte le frequenze sotto controllo. Sì, qui è andata un po'. E anch'io. Stai ascoltando. Te lo attacco, così la si bella. Boh, adesso vediamo. Adesso te lo attacco. Wow, questo è il Turner. Ma come modulazione quasi quasi non cambia, come mai? Perché cosa ne so io? Quasi quasi non cambia. Questo è il Turner e l'altro era l'MB più 4, tutte e due a metà sono. L'MBC4 non funzionava, a metà non usciva, mi intendia nei basso. Ehi K, prova a aumentarlo il Turner, a vedere. Qua, così l'ho messo a 6, dai. Ehi K, già va bene, è molto chiara lo stesso. Ma non è che c'è le batterie buone sono. Sono nuove, adesso l'ho messo a manetta il Turner. È buono. È buono. Adesso ti attacco attorno all'MB più 4 e lo metto a manetta, così vedi un po' qual è la differenza. Ehi capo, vai. Qua, questo è l'MB più 4. È vero, è più forte questa la radio. Ma è a metà, hai capito, è a metà. Adesso te lo metto a manetta, qua. Adesso è a manetta, di più forte. Sì, è più forte, sì. È strano, che il Turner sia così basso. Eppure è così, questo qui esce più forte. Esce. L'ho aperto stasera e me l'ho tutto messo a posto. No, già va bene, va bene. Il 4 è migliore come modulazione. Sì, è un po' più forte. Caspita. Io sto usando il 5, sto usando l'MVP5. E anche tu stai arrivando bene. Io ce l'ho a 50 centimetri lontano l'MVP4 e mi dice sta funzionando bene, là. Cavolo, sta funzionando bene. Io ti ascolto abbastanza bene, ti ascolto. sì, anche io ce l'ho distante, ho il braccio lungo, allungato, vai, sulla scrivania, sono seduto sulla poltrona e mi sto rilassando. E quindi è più forte del carne, dimmi tu, adesso lo metto tutta una metà, là. È inutile metterlo forte, tanto non stiamo facendo di ex, là. Non stiamo facendo combattimenti vari. Ah, va bene così. È una bella radio lo stesso, dai, non ti preoccupare, già stai uscendo abbastanza bene, anche se c'è il MBP4. Io mi ricordo di averti sentito un giorno con Turner ed era forte la radio, però oggi è bassa. E forse magari perché senti questo che è più forte, però anche il Turner già pompa. Ehi capo, ehi vabbè, l'importante è che compri qui. E allora Natalie, io stasera ho fatto a comere della casa il Saturnecco, perché l'avevo aumentato prima di modulazione di potenza, però non ne vale la pena. L'ho riabbassato come da prima, 4 watt e 10 watt di modulazione. E hai fatto bene, se ti si conseggia come ti chi su che successo a coso, a Gianni, che gli è successo un macello col Saturnecco. Meglio lasciarlo normale, da. E io per esempio non posso alzare nulla perché questo qui è il 3009 e c'ha 4 watt solo, vedi? Capo, guarda, questo a portante fissa muta 7 watt, e parlato mi dà 14-15. Ho capito. No, questo 4 watt, il 3009 omologato, non ho altro qua, quindi devo usare questo per forza. Ehi capo, ehi vabbè, già va bene, riesci a vedere con 4 watt a vedere, allora, ecco, così sto uscendo, adesso con 4 watt sto uscendo, com'è la situazione? Ma la modulazione non cambia, diciamo così, arrivi come arrivavi prima, arrivi adesso, arrivi un bel forte qua. Ehi capo, adesso mi sto dando, allora, 4 watt a portante muta e 8 di, a picchi di 8, dai, 8-9. Ehi, lo so, già si vedono i picchi di modulazione qua. Ehi capo, quelle gliele avevo aumentate perché, caspita, non ne aveva niente. Ehi vabbè, anda bene Neda, è bellissimo apparecchio quello lì, ce l'avevo anch'io, me ne sono pentito, me l'avevo venduto, era un bellissimo apparecchio il Saturnecco. Ehi capo, no, io mi avevo comprato il Galaxy Saturnecco Turbo, mi avevo comprato tanti anni fa, e poi quando ho smesso nel 2000 me l'ho venduto. No, prima del 2000 me l'ho venduto, nel 99 l'ho venduto. E poi me lo sono pentito. Infatti. Ma andare, purtroppo io devo usare questo qui, questo omologato, perché non si sa mai che mi hanno messo nel mirino e non si sa mai, no. Quindi purtroppo devo usare questo apparato qua. Ehi vabbè, un po' di pazienza anche lì, se ti riesce quello che stai facendo te ne freghi pure. Ehi, speriamo di sì. Io te lo auguro con tutto il cuore, te lo auguro di riuscirci. E vai, piedi in vela col gommino. Piedi in vela col gommino. E beh, Franco il socio, non si vedono mai questi garanzie, no? Sono una garanzia. Lo so, però quello l'avevo comprato nuovo, lo sai dove? Su in Via d'Italia l'avevo preso, dove c'è la fiacca al distributore. L'avevo preso nuovo, l'avevo preso, il turbo. E poi me l'ho venduto, no, ma fa con quell'anno mi avevo venduto. sia il Galaxy e il K di 680. Hai visto? Ah, vuol dire che dovrei comprare tutto. È sempre così. No, io ne ho offerte per il Galaxy, ma non lo tengo. Anzi, mi piace anche usarlo, figurati, sto usando spesso e volentieri il Galaxy e il K, sono tutti e due spenti. Va molto bene, c'è un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, poi adesso sto lavoro che ho fatto fare io è fenomenale. C'è un bel di potenza e va bene. K, quello sì. Fatti me la cena a capo di Busavino e farò meno qua. Ma una cazzata, 30 euro spesso. KK, sì, io ne ho tolto l'ecco, perché l'ecco del Galaxy non serve a niente, proprio a zero. Ho preferito toglierlo, la scheda l'ho conservata, e basta. E lì al posto suo ho preferito fare un lavoro fatto bene, serio, che si può inserire, disinserire, tutto bello tarato, fatto. E così, avanti tratta lì. Col lavoretto che gli ho fatto esce più forte del Turner adesso. Tra l'altro esce un bel forte, va bene. Ma sono a metà, prima a metà uscivo a basso. No, adesso va bene. Gappa, vai a fare quindi. Comunque va bene, dai, ho 4 watt, gli ho dato la minima, e adesso sto scendo 4 watt, gli ho dato 4 watt, e la massima sono 7 e arriva fino a 14-15. Va bene, il mio 4 watt è tutto chiuso, il power è 10 watt è tutto aperto, capito? È così, va bene. Io infatti lo tengo con chiuso a 4 watt perché c'è sempre l'amplificatore inserito, capito? Lo posso disinserire, ma lo tengo inserito. Uomo che ce l'hai, lo usi, va bene. Lì a Sassari, con quelli che sono vicino, non ne vale la pena tenerlo inserito, però va bene lo stesso. Io non so guizzino, io non ci sono a Sassari, io sono fuori Sassari. Appartengo al comune di Sassari, ma sono fuori Sassari. Sono 4 km da Sassari. Quindi mi devo aiutare sempre, se non è posso uscire 4 watt. Si esce con 4 watt, beh, così quanto ti sta arrivando? 9, 8, quanto ti sta arrivando? 9. Guarda, non lo so perché mi arrivi 5, però non lo so se questo lo sai che non è giusto, vai, il Smith. No, vabbè, 9 e 5, ma per dire, guarda, se io adesso faccio così, così è inserito, no? Così il lineare è inserito. Se io faccio così, che è disinserito, cosa succede? Santiago 1? No, sei sceso leggermente meno di 3. Meno di 3, figura di 2. E la radio non cambia, adesso sono con 4 watt. 4 watt, questi sono 4 watt, aspetta, 4 watt, cazzo. Allora, 4 watt, 10 watt. Così è 10 watt, 4 watt. Com'è la differenza? Di poco scende così. Te l'ho detto, va bene. Comunque, cosa vuoi che ti dica? Va bene, lasciamo stare così, capito? Inseriamo nuovamente il girabranchino, io c'ho il pulsante davanti, dove c'è la fare dell'ecco, e lo inserisco. Avanti, Natale. Cappa, e io ho un 4 watt, quanto ti arrivo, fra? Guarda, stai arrivando, la stessa cosa, però devo fare un casino adesso per agganciare l'altra al radio, se no te l'avrei agganciata e ti avrei dato il segnale giusto. Se stai arrivando, quanto è Claudio? Figurati, però io sono in basso qua. come sembra, insomma, sei più vicino a lui, nel senso che sei più aperto di me. Io so, chiuso. Va bene. Signori, io vi saluto, che è pronta la cena. Beh, ciao Franco, ciao Antonino, sono già alle 9:25. Ci sentiamo al prossimo. Ciao. Vai Fra. Ehi, ciao, allora, buona cena, buon tutto, dai, ci ascoltiamo le prossimine, Clau. Avanti a te, Natale. Ehi, ciao Claudio, buona cena, buon tutto, alle prossime, dai. Ciao, ciao ragazzi, alle prossimine, ciao, ciao. Ciao, capito Natale, tu in confronto a prima stai arrivando molto meglio. Ehi, prima l'antenna era un bel bassa, tutta brucia mari. Si fa più rubielle che ravelli. Quando non giocava a rugavo, era niente rugavo Trento. Si era parata Eva Trento pure a rugavo, compreso. Adesso il cavo è nuovo, l'antenna è più alta, più tutto là. Si vede dal ponte l'antenna mia, poche asa. Cappa, non ho avuto occasione ancora di passarceli, lo sai. Sono quasi tutti i giorni lì a Sassari, però non ho avuto ancora occasione di passare lì, perché di solito passo dall'altra parte, però dall'altra parte ci sono tanti alberi. Ho capito, no, io rientrando a casa dal ponte di Rosello l'ho vista l'antenna, è bianca e c'ha la carica rossa, già si riconosce. Ci sarà solo la tua in quella zona. Infatti, il profeta si è suicidato a chi l'ha vista con un binocolo da casa sua e ha visto l'antenna. Ma com'è questa così così così e quella è? Purtroppo hai fatto benissimo a metterla molto più in alto, perché ce l'hai fatta, poi quando sarà te le rimetti a posto le antenne, quelle che ci metti, perché sicuramente ne metterai altre. Sì, ce ne sono già tre. Allora viene a fare i buchi. E poi c'ho anche due dipoli qua dentro il vicolo, adesso vediamo se funzionano. Purtroppo adesso apparecchiature per poterlo vedere no, non ne ho qua, ma già arriverà anche quel momento. Capo, io ne ho uno, l'ho tirato, si prende però prende basso, non è, arrivano, quando c'è propagazione forte allora arrivano forte, arrivano, però no, non mi piace. E vabbè. Io ci avevo attaccato la carrucola, però l'hanno usata quella corda che c'era nella carrucola per altre cose, quindi non la posso usare per salirci il dipolo che volevo fare. Ma vabbè, per il momento va bene così. Capo, no, io me l'ho messo una, mi sa che ne metto anche un'altra o altre due, ne metto di carrucola su, perché vorrei mettere un altro dipolo diverso anche. Infatti così da terra si c'è la rasura. E allora, la scegliela come la sua bandiera. Proprio così. Allora quest'ora non entra nessuno proprio, Ma oggi non è entrato nessuno, manco la buffonatura. Poi molta gente non l'ho più sentita da molto tempo, un macello. Te lo ricordi Gianfranco? Sono da un bel po' che non lo sento. Gianfranco, infatti strano, perché a volte come accendevo c'era sempre lui, quando lo chiamavano c'era sempre, ma non ho avuto problemi. Ma non lo so, io manco il numero di telefono, c'ho a telefonarlo, a vedere. Speriamo che sia bene, che sia magari impegnato per lavoro, boh. Non lo so. Capita, se sta prendendo la propagazione. Ma adesso? Giù mai di Zumbareggiali. Su roba da chiudere. Cavolo, poco fa quando stavi parlando, per qualche secondo ti stavano coprendo. Ma io non ho sentito nessuno ancora, eppure la sento la propagazione quando c'è. Adesso ho migliorato un bel in ricezione. Bene, lo dovresti sentire, sì. No, io da qua sono come una madre a pezzi. A volte salgo per entrare a modulare e non entro perché non, tanto non vi ascolto, perché quelli di fuori sono più alti di voi. Beh, quando c'è propagazione è normale. Vabbè Franco, dai, ti saluto, anch'io me ne passo in quel retti, tanto non ne hanno voglia di entrare nessuno, va. Ci sentiamo alle cruci. Ehi capo, dai, io me ne vado un po' più in alto a ascoltare. Vediamo un po' cosa tutto c'è. Ciao Natali, ci ascoltiamo le prossime. Ciao.